sperando che tu tornerai. Forse dentro al cuore una canzone resterà, ballerà d'amore fino a quando non si sa. Io che d'amore non parlavo quasi mai, ora sono qui a parlarti e già tu te ne vai. Quanti amori ancora, una canzone canterò, ballerà d'amore fino a quando non lo so. Che d'amore.